Continuiamo. L'esperienza di Montefiorino è stata bellissima. È il 30 luglio noi eravamo, che mi ero già aggregato alla Stella Rossa, avevamo già sgomberato l'ospedale di Fontanaluce con tutti i feriti, portati una parte su Arcivago, che andò il dottor De Toffoli come primario. Questo lo dovete mettere perché a Fanano lo sanno in poco, la storia è stata a dir poco eroico per me, perché lui poteva scappare, venire a casa quando voleva, è rimasto lì a disposizione dei partigiani ed era un fascista, e prima lo sapete la storia di De Toffoli. Ecco. Sì. Perciò io ho avuto bisogno un paio di volte, sono andato a cercarlo, l'ho trovato, è venuto nel bosco a curare un ferito che c'è scritto su quel librino che le ho dato, che purtroppo è morto dopo 25 giorni. Però De Toffoli è venuto, si è preso da distanza, è arrivato lì e l'ha curato e disse: Enrico, c'è poco da fare perché aveva i testicoli, l'intestino, e ha preso una fucilata lì dopo 25 giorni morto. Povero Canelli Romeo che c'è su quel libricino lì.